I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, ciao a tutti, bentrovate e bentrovati. Questa è la prima trasmissione del nuovo anno politico della coordinamenta 2015-2016. Come avrete visto, abbiamo cambiato sigla. E non abbiamo cambiato sigla perché quella di prima non ci piacesse, anzi, abbiamo cambiato sigla perché abbiamo voluto fare un salto, cioè, tanto per spiegarci meglio. Con Flakes Girl, che era la sigla dei primi nostri 3 anni, parlava di una ragazza che rivendicava il suo essere fuori dalla norma. Rebel Girl, che è la sigla di quest'anno, è invece rivendica è una ragazza che si ribella. Speriamo fra 3 anni di mettere la sigla di una ragazza che sta facendo la rivoluzione. Come al solito, dedichiamo questa trasmissione a qualcosa che ci sta particolarmente a cuore. Questa trasmissione è dedicata a Lucia Ottobrini, l'ultima delle 4 compagne partigiane di GAP che parteciparono all'azione di Via Rasella. È morta alla fine di questo settembre e insieme a Carla Capponi, Maria Teresa Regard, Marisa Musso appunto parteciparono all'azione a questa azione di Via Rasella. Quindi noi siamo qui a raccogliere il filo rosso che ci ha lasciato e a continuare a tesserlo. We'll be right back. Mas vida só piensta viver. Paródia de moto machê, sem macama com sabura. Es vida só piensta viver. Paródia de moto machê. Quindi, anno nuovo, vita nuova. La trasmissione presenterà delle parti tradizionali, diciamo, e delle parti nuove. La novità è che ci sarà la rubrica di Dennis, che ha cambiato il nome da quelle che hanno il genere, da quelle che non hanno il genere ma hanno la classe, è passata ad essere un desmonauta. La rubrica si chiama Desmonautica. Desmonautica, sì. E possiamo leggere direttamente quello che Dennis ci ha scritto, perché spiega le ragioni le ragioni di questo passaggio, che non sono un semplice cambiamento di nome, ma sono un salto di qualità. Desmos: legame e vincolo per definizione, ma anche rapporto e relazione, interconnessione. Legamento nei libri di medicina, controllo in quelli di meccanica, desmologico è lo studio dei legami chimici, molecolari e atomici. Desmonautica è quaderno di appunti e diario di un viaggio nei tendini della società e alle sue desmopatie. Il desmonauta che lo narra ha smesso di non avere il genere, ma avere la classe. Per meglio dire, la classe ce l'ha ancora. Il genere pure, work in progress, tutto sta mutando e lui, non facendo eccezione, si è avviato verso nuovi sviluppi, nuovi orizzonti, una nuova storia sua e delle sue idee, ed è ora convinto e intenzionato più che mai ad indossare tuta antigravitazionale, solidi scarponcini e un paio di acuti occhiali materialisti per guardare, sviscerare, analizzare spazi e tempi. Gli spazi sono quelli del sapere, dell'agire, del divenire e dell'attraversare, con i soggetti e le contraddizioni che contengono. I tempi sono quelli che corrono e qualche volta fanno un salto in avanti. Ogni ultimo mercoledì del mese chiama le cose col loro nome, con interventi spuri tanto quanto le sue presenze nella sua rubrica, che rimane dov'è ogni ultimo mercoledì del mese, solito orario sulla frequenza 87.9 di Radio Onda Rossa. Dennis poi ha scelto una sua sigla per la rubrica, ed è una canzone che si chiama No Mythologies to Follow, che praticamente spero di tradurre decentemente: nessuna mitologia da seguire, di una cantante danese. E quindi, per quello che desidera dire e desidera essere Dennis, non c'è canzone, o comunque non c'è titolo più azzeccato. assombrado más y ni aire. Ok, quindi la trasmissione avrà come al solito un'impostazione per cui in apertura ci sarà una dedica a qualcosa, a qualcuno, un avvenimento o una figura femminista. Che ci è particolarmente cara per qualche ragione. Poi la prima parte sarà dedicata all'attualità femminista, quindi con la lettura di articoli di giornale o comunque cose di questo tipo. Poi c'è la parentesi come al solito che stacca. E poi la seconda parte è dedicata ad un approfondimento. E quindi adesso diamo il via all'argomento di questa sera, che praticamente prende tutta la trasmissione, e che è lo stato dei movimenti, e in particolare e comunque anche di quello femminista. Come veniva ora anticipato, infatti quest'oggi la trasmissione sarà diciamo un po' di attualità e un po' di approfondimento, nel senso che appunto abbiamo ritenuto necessario e utile riprendere il filo di quelle che sono state due iniziative importanti che si sono svolte in questo ottobre, appunto abbiamo chiamato un po' queste riflessioni sullo stato del movimento, e queste due iniziative hanno infatti chiamato a riflessioni e confronti su analisi e strumenti d'analisi, ma chiaramente anche su pratiche che possano rilanciare l'anticapitalismo e le lotte. La prima di queste, di cui che coprirà la prima parte della trasmissione, è l'iniziativa di 4 giorni che si è svolta in varie sedi a Roma e che si è chiamata Sfidare il presente. Mentre dopo lo stacco della parentesi di Elisabetta, che anche quest'oggi avremo il piacere di ascoltare, ci sarà invece la seconda parte appunto dedicata all'iniziativa che si è svolta il 20 ottobre dell'Assemblea per l'Autorganizzazione. Abbiamo anche con noi molte compagne e quindi faremo questa chiacchierata con loro. Have to be. Why don't you have wings to fly with? Like the swallow so proud and free. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Boom, boom, boom, boom. Donna, donna, donna. Easily bound and slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow, has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh. Summer's night, boom, boom, boom, boom. Donna, donna, donna, donna. Donna, donna, donna, donna. Donna, donna, donna. Souvent je me fâche parce que vraiment c'est pas un bruit, ça c'est ma langue. Allora, ci ricolleghiamo e volevamo appunto iniziare con chiedere a questa compagna se ci parlava appunto di che cosa è stata l'iniziativa della 4 giorni di sfidare il presente che si è tenuto a Roma dal 24 al 27 di settembre e che sono state 4 giornate di confronto, discussione e di analisi appunto su come sta il movimento e anche che direzione si voglia prendere. E quindi chiediamo insomma a lei di farci un po' un resoconto insomma dei punti fondamentali. L'unica cosa che volevo dire è che mi ha colpito molto di sfidare il presente è stato quello di appunto sentire molto spesso negli interventi sia introduttivi che nelle discussioni affrontare le analisi politiche attraverso anche uno spunto di riflessione che è quello no femminista, magari precisando appunto tutta la questione del lavoro di riproduzione, di cura o anche citando insomma la Federici e mettendo per esempio il grande Caliban che insomma vi abbiamo fatto una testa tanta penso ormai con la coordinamento a questo libro, comunque per chi non l'ha letto può andarlo a leggere, si trova online e, appunto quindi questo ci ha colpito e insomma nelle discussioni si sentiva ed anche per questo che poi ci siamo pure interessate e vorremmo insomma sapere poi quali sono le considerazioni tue. Prego. Ok, da dove iniziare? Allora, la 4 giorni è stata una un'iniziativa comunque nata cercando di provare in qualche modo a essere più un confronto che una iniziativa che in qualche modo dovesse aprire l'autunno, come ogni anno. Ci sono appunto delle iniziative fatte da tante realtà che provano in qualche modo a dare la lettura rispetto all'autunno e a quello anche darsi delle scadenze, delle tappe da attraversare durante l'autunno e anche durante l'anno. Quest'anno invece era più un confronto appunto tra varie realtà, non solo a livello appunto nazionale, ma anche invitando tutte quelle realtà che in qualche modo provano a costruire una opposizione ai governi dell'austerity nelle altre nazioni, quindi dalla Grecia fino agli Stati Uniti, e quindi provare a costruire un confronto. Abbiamo provato a farlo e speriamo che ci siamo riusciti, sia tra appunto individualità, collettivi, spazi che sono passati dalle iniziative appunto del nostro paese ma anche di altri paesi. E infatti appunto i primi due giorni sono stati tanto di confronto tra realtà differenti e l'ultima giornata invece è stata più quella di provare a dare un po' una sintesi della 4 giorni e anche provare a darsi delle linee guida in generale rispetto all'autunno. Forse questa è stata un po' la novità di questa iniziativa, che non ha magari come ci si poteva aspettare, non ha lanciato chissà quali appuntamenti, ma ha provato appunto a creare un confronto tra le varie realtà e capire in questo momento sia i limiti di chi sta costruendo appunto un'opposizione all'interno del paese che ha come primo obiettivo, ma non solo, sicuramente il Partito Democratico e Renzi sta applicando delle riforme abbastanza gravi e tutto quello che sta succedendo nel nostro paese e quindi cercare di capire a partire dai nostri limiti come fare a costruire questa opposizione all'interno del paese, cercando di analizzare anche i territori in cui stiamo, che in qualche modo sono difficili e sono cambiati tanto negli ultimi anni dopo la crisi e spesso magari ci siamo trovati inadeguati ad affrontare alcune situazioni, quindi voleva essere più appunto un momento di ragionamento per capire poi come provare a costruire la mobilitazione in generale durante l'autunno e oltre. Infatti per questo è stata redatta questa carta che voleva avere come fine, insomma, della 4 giorni, che voleva avere un respiro più lungo, quindi una cornice generale e poi un report appunto delle varie iniziative e anche dei campi di intervento. Abbiamo analizzato alcune cose durante la 4 giorni e quello che vorremmo andare a anche inchiestare durante questi mesi, capire come soprattutto cavalcare quel conflitto latente che c'è anche nelle nostre città, che abbiamo visto, se vogliamo parlare anche di Roma, che abbiamo visto esplodere spesso e volentieri nelle nostre città e che magari ci siamo trovati anche in situazioni abbastanza difficile, dove non per forza venivano dalla nostra parte, avevano, diciamo, una lettura positiva, anzi spesso erano auto distruttive e appunto sono territori più che altro difficili da attraversare anche con gli strumenti che abbiamo in questo momento. E inoltre, ovviamente, facendoci anche carico delle esperienze invece fatte fino ad ora, sicuramente una delle più importanti da citare, che ha mosso tanto in questi 2 anni, è quello del terreno della lotta per la casa, che appunto è riuscito a conquistare tanto e allo stesso tempo ha subito anche un attacco molto forte, quindi anche lì capire dove si è arrivati e come si può continuare a costruire e ad andare avanti su questo terreno qui. E poi mi facevi la domanda sulla, se ho capito bene, mi ero distratta sulla parte, insomma, femminista della 4 giorni, che un po' è mancata, direi, e nonostante avessimo provato in realtà prima della 4 giorni ovviamente a contattare la Federici, non ci siamo riusciti. Sarebbe stato un bel momento, anche perché spesso appunto mancano questi punti di vista e non ci siamo riusciti appunto. Ma ci siamo state noi. Ma ci siete state voi, assolutamente. E sicuramente anche quella è una sfida da portare avanti e da provare, insomma, a mettere all'interno delle robe che costruiamo. E era una parte importante, soprattutto perché nel momento in cui abbiamo parlato di diciamo metropoli, di neoliberismo, l'abbiamo diciamo affrontato solo dalla parte appunto da una parte sola, non dalla riproduzione dei meccanismi che invece portano appunto all'accumulazione, al profitto. Abbiamo solo parlato appunto del conflitto capitale-lavoro, abbiamo parlato del neoliberismo, però l'altra parte, come dicevate anche voi, è un po' mancata. Sicuramente il contributo della Federici ci è mancato, però abbiamo probabilmente la possibilità di incontrarla a breve, perché verrà in Italia e quindi forse strapperemo un'intervista o magari anche un incontro, perché no. No, ma infatti devo dire, insomma, comunque il fatto di avere una situazione in cui per la prima volta, cioè nel senso almeno da quando faccio politica, almeno si fa questo tentativo di passaggio, no? Poi, insomma, appunto, magari non c'è stata una discussione, non si è aperto un fronte su quello, però effettivamente ha attraversato tutte le discussioni e quindi, insomma, mi sembra già un data via, non si sente più niente. E quindi, insomma, secondo me è già stato un buon passo, insomma, nel in quello che è questo orizzonte, no? Quindi appunto un orizzonte abbastanza buio per tutti e tutte, per cui insomma anche cominciare a comprendere che all'interno della nostra analisi debba esserci una visione che vada insieme a quella del pensiero femminista, mi sembra insomma già buon punto. Sì, anche perché poi sta alle compagne, diciamo, cioè a tutte noi, no, identificare dei nuovi terreni di lotta, nel senso non nuovi perché sono venuti fuori adesso e da queste contraddizioni, ma forse un po' nuovi per noi, nel senso che c'è stato un momento anche di come dire, di latenza, cioè del femminismo e di alcune sue pratiche, no? E purtroppo infatti è stato anche colonizzato da un certo modo di intendere il femminismo che ha portato infatti a un discorso molto pacificato, emancipatorio, di pari diritti, piuttosto di trasversalità sempre e comunque della lotta di genere, che come sempre diciamo, se questa oppressione di genere è trasversale alle classi, ai paesi eccetera, poi la pratica femminista e la lotta non lo può essere, no? Quindi da tutti questi discorsi, cioè comprendere l'importanza di legare al discorso sulla produzione, i meccanismi di produzione, quello sulla riproduzione sociale, quindi la riproduzione anche di questi rapporti di produzione, serve anche non soltanto ad avere un quadro teorico più completo, ma forse anche ad aprire nuovi scenari di auto-organizzazione. Io vorrei chiederti se poi nell'assemblea finale sono venuti fuori dei degli input di lotta organizzato, degli appuntamenti come dicevi tu prima, bensì se sono venuti fuori degli spunti per delle modalità di lotta che potrebbero essere diverse e uscire dai meccanismi invece che si sono ripetuti fino adesso, che ti posso dire della manifestazione del sit-in, se è venuto fuori qualche scintilla o comunque qualche idea che possa aprire scenari, perché la discussione è stata varia ed è stata molto articolata. E penso che una delle cose più importanti in questo momento per noi, per tutto il movimento di cui poi il femminismo fa parte, è individuare delle modalità diverse che incidano, perché quelle che finora abbiamo usato le sentiamo molto strette e comunque molto insufficienti, no? Esatto, sì, perché proprio le premesse, insomma, della, come dicevo prima, della costruzione della quattro giorni erano un po' questo, cioè cercare di capire anche dopo magari anche cicli di lotta che come appunto perché sono ciclici hanno dei momenti di alto e dei momenti di bassa, come provare a ad arrivare anche ad altri, su altri terreni che si sono appunto come abbiamo visto su Roma, ma anche su altre città che in qualche modo hanno pezzi appunto di classe, hanno provato a costruire, a più che costruire, a esprimere la loro rabbia, la loro opposizione, come ci siamo detti tante volte, non sempre siamo riusciti a leggere fino in fondo delle questioni o a anche organizzarle, se vogliamo usare questo termine. E io credo che più che delle idee nuove, più che altro secondo me sono stati importanti degli spunti. A me ha fatto piacere, soprattutto durante la prima giornata, sentire le esperienze degli altri paesi, in particolare l'intervento del ragazzo inglese che fa parte della campagna Boycott Workfare, è stato molto interessante perché è una già hanno sviluppato lì in Inghilterra alcune questioni come quella del workfare, che noi vedremo dopo il Jobs Act, quindi quello è stato uno spunto per capire come alcune cose da noi arriveranno tra poco, già insomma hanno smantellato parti importanti di diritti in questi anni, e però mi pare appunto che il Jobs Act sia anche un altro pezzetto che si avvicina tanto al modello della al modello inglese. E quello è stato quell'intervento è stato interessante, come provano in qualche modo a far diventare il disoccupato colui appunto che perde il lavoro come un malato sociale, e è costretto in qualche maniera a subire anche delle vessazioni nel momento in cui raccontava appunto questo ragazzo come dopo che vieni licenziato vieni costretto a fare dei periodi di formazione magari nella stessa azienda che da cui hai ricevuto il licenziamento. Ovviamente sono anche dei corsi di formazione piuttosto che del lavoro gratuito che vai a fare che ti vengono imposti per poter ricevere il sussidio di disoccupazione. Ho raccontato questa cosa per fare un esempio di come magari altre esperienze ti possono dare degli spunti rispetto a quello che succede negli altri paesi e che magari ancora qui devono essere applicate, e che rappresenta magari il secondo step del Jobs Act in questo momento. Oppure pensiamo all'esperienza del salario minimo negli Stati Uniti, che alcuni interventi non appartengono troppo alla nostra al nostro modo di intendere appunto anche le vertenze autonome, auto-organizzate, come quello che fece Valerie Alzaga il secondo giorno, ma appunto davano piuttosto degli spunti di discussione. Quindi, per rispondere alla tua domanda, più che delle linee strette, io penso che si siano dati degli spunti su cui lavorare e provare a sperimentarsi, e appunto delle linee guida, come per esempio una cosa che è stata accennata e che secondo me sarebbe molto importante recuperare sia come teoria che come pratica è quella del rifiuto del lavoro, cioè il concetto del rifiuto del lavoro che è stato completamente bypassato ed anzi volutamente demonizzato dagli anni 80 in poi, dovrebbe essere recuperato, perché è un elemento molto aggregante rispetto a tutta una serie di soggettività che non sono soltanto più i lavoratori, in questo appunto per esempio tutte le modalità sindacali e le modalità anche, vabbè, io penso anche lo sciopero, ma comunque bisognerebbe parlarne, appartengono a una società che non è più questa, e adesso ci sono tutta una serie di soggettività che non sono più determinate, ma sono, come dicevi tu, la lavoratrice precaria, quella che lavora e non lavora, il disoccupato, il cassa integrato, quello messo a riposo antetempo, il pensionato che non arriva alla fine del mese, cioè il migrante, quello precario, tutta una serie di soggettività che dovrebbero trovare un sentire comune in qualche cosa che è la comprensione che almeno questo è un punto di vista, non necessariamente appunto te lo giro, non la richiesta di lavoro ma la consapevolezza del rifiuto del lavoro, che cosa significa il lavoro in questa società, no? Assolutamente, infatti penso che per esempio l'incontro invece con Caffensis, lui ha trattato più la questione del debito all'interno dell'università e tutto quello insomma che è successo negli Stati Uniti e che conosciamo, e però si poteva magari stare lì a parlare con Caffensis per ore, perché c'erano anche spunti differenti che volevamo far emergere, è appunto la questione del lavoro, che lui nelle sue nei libri che ha scritto lo tratta molto questo argomento, e appunto sottolinea proprio quello che dicevi tu, probabilmente anche penso influenzato dalla battaglia che ha portato avanti la Federici da quando ha cominciato a scrivere fino a poi quando si è trasferita negli Stati Uniti e quindi sul discorso della la battaglia appunto sul lavoro per quanto riguarda le casalinghe, quindi tutta è molto influenzata quello che scrive è molto influenzato da questa roba che dicevi tu e quindi dal discorso che appunto non si può solo soprattutto in questo momento magari parlare semplicemente appunto di del rapporto capitale lavoro se non si è compreso tutto quello che ci sta fuori, tra cui appunto la riproduzione sociale di questa roba. Avrebbe spostato diciamo il discorso da quello che è il valore di scambio a quello che è il valore d'uso, per cui è proprio una riappropriazione di tutta una serie di temi che il capitale da una trentina d'anni a questa parte ha cercato di demonizzare, di affossare, proprio perché portano con sé una consapevolezza politica di fondo molto più profonda che non la rivendicazione categoriale, no? Sì. Vai. Secondo me un altro spunto poi appunto assistito alle quattro giornate è quello sulla rottura del patto sociale che un po', insomma è già stato detto nel tuo intervento, no? E anche da quello, cioè nel senso anche semplicemente nel dirsi che questo patto sociale è stato rotto e che quindi appunto non c'è più un diciamo un do ut des che prima c'era, anche pensando alle pensioni, no? Io ti pagavo le tasse, tu in cambio mi davi la pensione quando io smettevo di lavorare, per fare l'esempio più banale mi viene in mente. Secondo me apre anche degli strumenti di possibili, poi appunto è tutto ancora da costruire, però secondo me anche quel passaggio lì permette poi di verificare, di vedersi, cioè negli anni 70 si facevano le autoriduzioni, no? Mm-hmm. Ovviamente ora è quasi impossibile perché anche pensando a un'utenza semplice che si può avere attaccata, le cabine non sono più nel palazzo per la sicurezza, sono state spostate, sono state messe, quindi è tutto molto magari più complicato e anche molto distante da quello che è il soggetto a cui vorresti proporlo, no? Ad oggi, perché c'è stata tutta una pacificazione sociale molto forte e questo ha portato il fatto che nella maggior parte dei casi chiunque rispetta le regole perché così non gli succede nulla. Quindi secondo me questi due fronti, cioè la rottura del patto sociale, il fatto di intervenire su questo buonismo, no? Allargato su tutto, che poi si può vedere all'università quando vuoi fare parli dell'ISE o che cioè non vai all'università se non paghi le tasse, no? E però la gente che si appunto in America sono arrivati a fare debiti d'onore, ma qua magari non sono cifre alte perché non abbiamo ancora le università private come a quel livello, ma comunque di base minimo ti ci vogliono 3.000 euro all'anno senza libri come minimo, se non ho guardato male le tasse. Quindi anche lì c'è tutto un fronte, come dicevi tu, che là è già arrivato, noi il modello americano l'abbiamo sussunto, poi siamo più lenti perché insomma siamo il paese rente della ciao me faccio con calma. Beh, anche perché abbiamo una tradizione di lotta, abbiamo avuto una tradizione di lotta diversa e introdurre certi concetti è stato più difficile. Ci voleva un partito come il PD che usava un lessico di sinistra per introdurre una politica di destra. Ma come ultima, diciamo, senza poi allungare troppo, però proprio come diceva Noemi alla fine, le giornate sull'università sono state importanti, nel senso che c'era comunque una composizione molto ampia, diciamo, di studenti, di collettivi universitari e non solo, anche di media, eccetera, e quello che è uscito fuori un po' nella giornata all'università, almeno dal mio punto di vista, sono state due strade egualmente interessanti e che vedo chiaramente interconnesse, perché il discorso che avete messo al centro sulla meritocrazia come dispositivo, strumento, insomma, di tra gli strumenti principali attraverso cui fanno passare la ristrutturazione universitaria oggi è centrale, anche noi abbiamo avuto modo di affrontarlo e poi è un filo rosso che lega anche la buona scuola a quello che succede all'università, no? E poi invece dall'altra parte appunto diciamo come come lente più focalizzata sulla selezione di classe proprio la ristrutturazione anche dell'ISE, no? Di quelle fasce, e là è emerso, cioè si è insistito, a quanto io ho inteso, insomma, molto su il fatto che c'è una rabbia, c'è una insoddisfazione costante e molto forte degli studenti, che appunto, insomma, potrebbe avere su questo un buon terreno su cui riversarsi, no? Quindi da una parte, diciamo, smascherare la meritocrazia come strumento di governo, e dall'altra anche rifiutarsi di pagare l'ISEE, sia per come è stato ristrutturato adesso, ma in generale, insomma, le tasse universitarie sono sempre state completamente inique. Sì, per una battuta su quello che diceva prima Noemi, io penso che questo, la rottura del patto sociale, sia abbastanza evidente, però è allo stesso tempo, questo discorso è legato un po', se vogliamo, al fallimento delle sinistre europee in qualche maniera, che hanno provato in questi anni, parlo di Syriza piuttosto che Podemos in Spagna, oppure i tentativi magari simili in Italia, molto meno incisivi e importanti, che hanno provato ancora in qualche modo a dare di nuovo, insomma, questa strada come possibile dopo la crisi. Ma appunto la rottura del patto sociale è così evidente che quella strada mi pare che sia veramente fallita in questo senso, anche perché non mi pare che ci siano in questo momento altre possibilità se non quella del conflitto, ma non come parola, insomma, vuota. Appunto ci stiamo cercando anche qui di argomentarlo questo discorso, che mi pare che solo i momenti di rottura possono farci avanzare in qualche maniera, e anche costruire diversi modi, ma anche capire quali sono le forme organizzative differenti proprio da quello che andiamo a costruire nei territori e insieme. E questo discorso, cioè, deve essere ancora più palesato, perché mi pare appunto che c'è stato appunto un tentativo di ripercorrere in qualche modo quella strada, e se vogliamo oso dire che forse noi in Italia le abbiamo già passato questo periodo e ha dimostrato in qualche modo il suo fallimento. Invece per quanto invece appunto la rottura del patto sociale è evidente veramente appunto là dove viviamo, nel momento in cui appunto anche se vogliamo delle pratiche come quella della riappropriazione non vengono nemmeno in qualche modo più legittimate, ma si è proprio rotto qualsiasi tipo di modo anche di in qualche modo pacificare la popolazione cercando di dare qualcosa, no? C'è proprio una rottura netta. Invece per quanto riguarda quello che dicevi sull'università, io penso che quel passaggio, come dicevi, è importante anche perché è direttamente legato a quello che poi avviene dopo l'università, quindi come se ti educano benissimo all'interno delle scuole, perché la buona scuola vuol dire anche questo, il discorso della meritocrazia che è ancora più marcato con la buona scuola, e poi con la riforma ormai Gelmini dell'università, ti educano a pensare che solo se sgomiti fino alla morte puoi riuscire a fare qualcosa, e quindi si creano anche dei meccanismi di competizione e di individualizzazione all'interno dell'università, che è quasi difficile costruire comunità e anche costruire l'opposizione all'interno dell'università e stessa. Anche di precarizzazione all'interno dell'università per tutti i docenti, ricercatori, eccetera, perché nel momento in cui il sapere deve essere standardizzato, quindi fatto in pillolette, nozionistico, eccetera, la qualità dell'insegnamento, diciamo, conta poco ai fini, no? Tutti questi nuovi strumenti di misurazione della qualità della ricerca, eccetera, quindi un professore incomincia a valere un altro, soprattutto a scuola, no? Quindi alla fine se uno vale l'altro perché mi deve dare la lezioncina in pillole, è ancora più sostituibile di esatto. Prima, no? Quindi sì. Cioè, sono meccanismi ad ampio raggio. Volevo dire un attimo due parole rispetto a quello che dicevi prima sui tentativi chiamiamoli riformisti socialdemocratici, che hai portato, che, di cui hai fatto l'esempio, sì, perché c'è un'incomprensione, diciamo, diamogli la buona fede, no? Allora c'è un'incomprensione di fondo del momento che stiamo attraversando, perché il neoliberismo non è il frutto di una crisi, è una scelta ideologica precisa, e se la scelta ideologica precisa è quella di modificare radicalmente i rapporti con gli oppressi o comunque con gli strati subalterni, ed è una scelta unilaterale, qualsiasi spazio di contrattazione è chiuso, quindi è inutile tentare di portare avanti politiche keynesiane che non hanno un interlocutore dall'altra parte. In ogni caso è un deviare tutta una serie di sforzi in una direzione che è assolutamente fallimentare. Sì, esatto. Detto questo, penso appunto che la domanda è: che cosa faremo? Sì, infatti, un'altra cosa che ci siamo detti durante quattro giorni: ragionamento, le proposte, le linee guida devono servire anche a fare in modo che un po' la partire dai limiti non vuol dire in qualche modo avere l'alibi di rimanere fermi, ma invece continuare ad osare e a provare a sperimentare. È già un grandissimo passo avanti, no? Sì. Perché la comprensione del momento che stiamo attraversando, in cui siamo infilate, è la premessa fondamentale per poter poi portare avanti delle lotte, perché se non si prende atto che gli spazi di contrattazione sono chiusi, che di fronte non hai più un interlocutore ma hai un nemico, che è una scelta di fondo drastica e quindi non è contrattabile questo tipo di impostazione, già a partire da qui è un notevole passo avanti, perché finora ci sono state tutta una serie di spinte, chiamiamole, che hanno deviato le lotte in tanti altri rivoli che invece sì, avrebbero potuto essere indirizzati diversamente. Appunto, come per continuare quello che dicevi, sicuramente dopo questa quattro giorni è fondamentale costruire la mobilitazione nelle scuole e nelle università, riuscire a rompere anche quei meccanismi di cui parlava Margherita prima di me, e lo stesso continuare sul terreno della riappropriazione, perché mi sembra uno dei terreni su cui dobbiamo continuare a scommettere, continuare a riappropriarci degli spazi abitativi che non lo sono, e soprattutto andare a sperimentare su quei terreni in cui ancora non siamo arrivati. Beh, noi ti ringraziamo tantissimo per questa chiacchierata e grazie a voi. Quindi adesso andiamo avanti con la trasmissione, mettiamo un attimo un secondo di musica. Je me fâche parce que vraiment c'est pas un bruit, ça c'est ma langue. Par exemple, les gens m'appellent Myriam Makeba, ça c'est pas tellement mon nom c'est Zenzile Kamakeba Katwashu Nguva Maiketile Nengwa Bantana Balom Sitwa Funo Bajabulisa Batengeli Potili Yotwala. Les colonisateurs de chez nous en Afrique du Sud appellent cette chanson click song parce que il ne sait pas dire ou qu'on Chapa, how to go, Chanel. Select the one that Okay, we will do. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte, ciao a tutti. Mai contro sole. Quando si decide di intraprendere una lotta, il primo problema che ci si dovrebbe porre è il riconoscimento del nemico. Non è una questione da poco o da sottovalutare, altrimenti rischiamo di combattere contro sole e non vedere chi abbiamo di fronte significa perdere in partenza. Lo abbiamo già detto tante volte, siamo calate nella fase imperialista del capitalismo, nella sua fase che tende al monopolio. Il neoliberismo non è altro che il punto a cui è arrivato il capitale nel suo processo autoespansivo. È una vera e propria scelta ideologica e non il prodotto di un momento di crisi. O meglio, la crisi c'è, ma è per tutti quelli attaccati dalle politiche neoliberiste, siano strati sociali o stati, qui o nel terzo mondo. E nulla di quello che succede è il prodotto di una difficoltà del capitale, bensì di una precisa scelta. Stiamo assistendo ad una lotta spietata, senza esclusione di colpi, per la ridefinizione dei rapporti di forza tra le multinazionali e gli stati e con gli oppressi tutti. Ma il neoliberismo è un prodotto ideologico statunitense che, testato nel Cile di Pinochet, attraverso l'Inghilterra è arrivato fino a noi in Europa. Sono proprio gli Stati Uniti ad avere la pretesa egemonica e a porsi come stato del capitale. Dire questo non significa fare dell'antiamericanismo, ma leggere gli avvenimenti che scorrono davanti ai nostri occhi per quello che sono: un attacco a tutto campo da parte degli USA a tutti coloro che sono asimmetrici agli interessi statunitensi, un passo dopo l'altro dalla Jugoslavia all'Iraq, passando per l'Afghanistan, dalla Libia alla Siria, o che possono essere funzionali al progetto espansivo, come per l'Ucraina. Il progetto di dominio e di controllo mondiale degli USA cammina senza soste e non riconosce neppure alleati, ma solo vassalli. È chiaro che, essendo la fase imperialista, anche gli altri paesi sono imperialisti. L'Europa stessa avrebbe delle pretese di imporsi come polo imperialista autonomo dagli USA, dato che i suoi interessi non sono coincidenti, ma non ne ha né la possibilità né la forza, soprattutto militare. Una potenza economica come la Germania è invasa dalle basi statunitensi e non riesce a sottrarsi alle sanzioni nei confronti della Russia, che la danneggiano fortemente. Il TTIP è emblematico dell'attacco sferrato dagli USA all'Unione Europea. Annacquare il discorso politico in un generico antiimperialismo significa non riconoscere il nemico e quindi sottovalutare l'importanza delle mobilitazioni contro la NATO, vero e proprio esercito di aggressione, e danzare sopra una polveriera. Ma non riconoscere il nemico esterno non permette neppure di riconoscere il nemico interno. È il PD, nelle sue varie accezioni, ad aver naturalizzato e a naturalizzare il neoliberismo nel nostro paese e a rappresentare gli interessi delle multinazionali anglo-americane qui da noi e ad aver trasformato l'Italia in un governatorato. Ma il riconoscimento del nemico non avviene per posizioni ideologiche o preconcette, avviene solo e soltanto dall'analisi delle scelte e dei comportamenti politici. La socialdemocrazia si è trasformata in destra moderna e, usando un lessico, parole, segni, segnali e modalità della sinistra, è riuscita a naturalizzare il neoliberismo, un passo dopo l'altro, una cosiddetta riforma dopo l'altra, fino all'attuale dilagare del governo Renzi, tra l'altro illegittimo, ma che rappresenta solo l'ultimo atto di un lungo percorso. La destra tradizionale è in questo gioco assolutamente perdente, attardata su modalità politiche, queste sì, della vecchia DC, dei contributi statali a pioggia, delle commesse nel sud e dei rapporti con la mafia, a tutela degli interessi di una borghesia nazionale destinata alla sconfitta dalla nuova iperborghesia, o borghesia transnazionale o borghesia imperialista, che dir si voglia. L'iperborghesia sta ridefinendo gli assetti anche all'interno di quella che era l'ossatura della borghesia, e in questa ridefinizione dei rapporti all'interno della classe ha buttato a mare la piccola e media borghesia, i piccoli imprenditori, i professionisti, gli insegnanti, il ceto medio. Il traballante strumentale, perché scelto in verità in funzione anticomunista, con riferimento non solo all'Unione Sovietica, ma ad un immaginario che attraversava le classi subalterne. Dicevamo, il traballante strumentale stato sociale keynesiano è venuto meno. È stato chiuso in maniera drastica e unilaterale ogni spazio di contrattazione. Ma c'è l'impressione netta che le lotte che vengono messe in atto per contrapporsi al neoliberismo dilagante appartengono ancora ad una configurazione sociale keynesiana che non esiste più. Gli scioperi, le proteste, le manifestazioni, i presidi sono tutte forme di lotta che presuppongono un interlocutore. Ma l'interlocutore non c'è più, c'è solo un nemico. E se il patto sociale è rotto, perché è rotto, e purtroppo non l'abbiamo rotto noi, allora nessuno, ma proprio nessuno, deve più nulla a questo Stato. Nessuna tassa, nessun ticket, nessuna bolletta, nessuna multa, nessun biglietto, nulla di nulla è più devuto a nessun titolo. Le lotte territoriali sono importanti, partire dai bisogni e dalle esigenze altrettanto, ma non basta. Bisogna riuscire a parlare a tutti gli strati sociali colpiti dalla crisi, cogliere e raccogliere quelle istanze che li attraversano e trasformarle in lotta di classe. E qualsiasi lotta portiamo avanti, non ci dobbiamo mai dimenticare chi è il nemico esterno, chi è il nemico interno e qual è il nostro obiettivo: uscire da questa società. Ciao. Okay, sing the chorus to Donna with me, okay? How the winds are laughing, they laugh with all. très très joli. E ritorniamo in diretta. Come vi avevamo anticipato, questa seconda parte è dedicata invece a un'altra iniziativa che si è svolta il 20 settembre all'Orto Insorto, chiamata dall'Assemblea per l'Autorganizzazione, e si intitolava "Settembre andiamo, è tempo di lottare", la concretezza della lotta di classe contro la simulazione del conflitto. Abbiamo qui due compagne con cui appunto ci piacerebbe confrontarci sia sull'iniziativa in sé, ma anche forse come inizio un racconto di quello che è l'esperienza per l'autorganizzazione, cioè dell'Assemblea per l'Autorganizzazione, e quindi su questo ti do la parola. Ok, ciao a tutte e tutti. E dunque, appunto, noi come Assemblea per l'Autorganizzazione, che vabbè, è composta dal Comitato di Lotta Quadraro, il Centro Sociale IPO di Marino e l'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà, e compagne e compagni singoli, e abbiamo avviato appunto da settembre, dal 20, questo percorso di confronto e messa in discussione del, appunto, del metodo che noi portiamo avanti in tutte le lotte che agiamo, che è quello dell'autorganizzazione, sempre ovviamente con il metodo prassi teoria prassi, cioè uno mette in pratica un modello di lotta, lo verifica poi in base alla realtà a come va, lo ritara con la teoria e riapplica insomma il metodo che sta portando avanti. E appunto abbiamo avviato questo percorso per mettere a confronto il nostro metodo con altre realtà fuori dall'Assemblea per l'Autorganizzazione. E giusto un po' per spiegare come ci muoviamo, insomma, l'autorganizzazione per quanto ci riguarda si agisce insomma su due livelli. E cioè l'autorganizzazione come metodo e come modello, in che senso? Come metodo perché appunto in tutte le lotte che noi agiamo, sia quelle territoriali che sui posti di lavoro, quelle ambientali, quelle di genere, in tutte le lotte dove noi andiamo ad agire ci muoviamo con il metodo auto-organizzato, nel senso senza un'organizzazione verticistica, qualcuno che decide per gli altri. Al centro c'è sempre l'assemblea che decide e si muove in base alle le decisioni dell'assemblea stessa, perché riteniamo appunto che sia giusto che a decidere qual è il metodo di lotta e le varie iniziative da agire siano i protagonisti di quella lotta stessa. Cioè, immaginiamoci come in un posto di lavoro appunto magari arriva un sindacalista esterno a quel posto di lavoro, e che ne sa quella persona di quali sono le contraddizioni, i problemi da agire? Lo sanno sicuramente meglio le lavoratrici e i lavoratori che agiscono in quel posto di lavoro. Allora, perché non prendere parola direttamente e decidere in prima persona del proprio destino? In questo c'è anche il secondo livello, insomma, che è quello del modello. Cioè, per noi già applicare questo modello vuol dire già tentare di superare il modello capitalista purtroppo in cui viviamo, e tentare di agire un altro modello proprio di stare al mondo, un modello di contropotere in cui appunto sia la lotta stessa ma i singoli già si prefigurano come un qualcosa di diverso e di nuovo per superare appunto il modello in cui ahimè, ai noi insomma, siamo costretti a vivere, che è quello capitalista. E in questo noi insomma cioè ci teniamo sempre a tarare ovviamente le iniziative di lotta in base a quelli che sono le reali forze in campo, insomma il reale rapporto di forza che c'è in quella lotta stessa. Ovviamente ci sono le contraddizioni che ogni lotta ha, cioè uno si deve ovviamente riportare alla realtà, quindi ogni lotta ha i suoi tempi, i componenti di quella lotta acquisiscono mano a mano la consapevolezza di poter prendere insomma in mano il proprio destino senza dover delegare a qualcun altro. Purtroppo il meccanismo della delega è stato uno dei motivi per cui ci ritroviamo in questa situazione oggi, dove peraltro apro una parentesi sul lavoro che è sempre un tema che mi preme molto. Adesso daranno la botta definitiva togliendo i contratti nazionali di lavoro, lo [S2] Certo. [S1] Faranno a breve insomma. e in questo insomma non per noi hanno poco senso magari quelle iniziative chiamate così sulla base di qualcosa che magari teoricamente potrebbe essere anche giusto ma che non ha basi concrete, quindi insomma tendiamo ad agire lotte reali concrete che ci hanno dietro proletari e proletarie, sfruttate e sfruttati, quali noi insomma siamo, e che quindi si reggono con le loro gambe e in base al rapporto di forza che riesce a esprimere quella lotta in quel momento si tarano insomma le iniziative di lotta. Per noi ha senso parlare di proletarie, proletari, sfruttate e sfruttati, ha poco senso parlare di poveri come adesso la Chiesa la sbandiera tranquillamente. Sì, è una categoria prepolitica quella, sì, insomma. O queste categorie tipo moltitudine, queste cose un po' insomma inventate che non danno invece il vero senso reale. Cioè i padroni sanno benissimo qual è la situazione reale, cioè noi siamo materialiste in prima battuta, i padroni lo sono prima di noi. Padroni, proletari e proletari lo usano tranquillamente, non hanno mai smesso di usarlo. Noi abbiamo smesso di usare dei termini, ci siamo fatte ingannare e crediamo che sia insomma il momento di... Ma soprattutto il fatto di parlare di poveri o di povere, che fra l'altro è un termine cattolico, di stampo chiaramente cattolico, e, oppure di moltitudini o comunque dare definizioni di questo tipo, è automaticamente da una parte togliere dignità politica al soggetto oppresso, perché nel momento in cui tu gli dai una definizione sociologica, psicologica, di svariata natura, gli togli dignità politica. E poi lo stesso soggetto non si identifica più, cioè quando tu una parla per esempio di sfruttato, la parola sfruttato identifica uno sfruttatore immediatamente, certo, ed identifica una condizione. Cioè una causa e un effetto. Una causa e un effetto, no? Certo. In cui si proprio quello che è in questa condizione identifica il suo nome con una situazione politica. Se tu gli togli questo, che poi è quello che vuole fare, se, non tu insomma, è un tu generico per certo, carità, sì. È proprio il contrario, se uno gli toglie questo, che cosa succede? Che fa proprio quello che vuole il neoliberismo, che tende a spoliticizzare qualsiasi tipo di situazione, no? E quindi ottiene il risultato di non identificare mai il nemico, di non identificare mai la controparte. Certo. Sì, esatto, infatti proprio per questo, ciao, un saluto a tutte, e proprio per questo noi pensiamo che il modo migliore per affrontare diciamo queste forme di capitalismo sia proprio insomma torna necessario partire da una partecipazione diretta, quindi questo è l'unico metodo, l'unico modo che noi abbiamo per fare in modo che appunto il metodo di lotta sia assolutamente legato a una partecipazione diretta che parta in primis dai propri territori. Quindi senti, posso dire un'ultima cosa, certo, proposito dei poveri e poveri, perché mi è venuta in mente adesso. Tra l'altro, in una definizione di questo tipo non si identifica nessuno e nessuna, nel senso che la condizione di povero e povera viene rigettata, mentre la condizione di sfruttato dà dignità al soggetto, è il soggetto stesso che non vuole riconoscersi come povero. Oltretutto, che cosa ha fatto il capitale, che è bravissimo in questo, molto, nel molto costruire più di egemonia culturale in maniera pazzesca, ha lanciato sta lanciando, è uno dei suoi cavalli di battaglia, sempre il principio che tutti gli altri sono poveri, ma noi no, il soggetto no, il soggetto ce la farà, lui sarà così bravo che non sarà povero mentre tutti gli altri sono poveri. Oppure se non ce la fa è colpa sua. O se non ce la fa è colpa sua. Un po' quindi colpa sua, un'ulteriore, no? Spoliticizzazione, no, dal contesto. Certo, no? Certo. No, poi volevo dire una cosa a proposito della delega, ma dopo. No, no, ecco, proprio per chiudere che è importante non affrontare la questione partendo dal generale, analizzando diciamo nella sua più ampia gamma, ma ripartire sempre dalle proprie specificità, quindi dicevamo il territorio anzitutto, quindi i posti di lavoro, tutto quello che riguardano le speculazioni ambientali più specifiche, torniamo ancora sui territori, quindi ecco, quindi evitare di fare diciamo una visione, un'analisi generale, ma partendo da quello che è lo specifico, partendo quindi come sappiamo da noi. Certo, e nel frattempo appunto tentare con queste lotte intanto di instaurare dei piccoli contropoteri, già prefigurando il tipo di società che noi ci immaginiamo per il futuro, perché ci hanno fatto credere che il capitalismo è la fine della storia, quanto di più falso, cioè non è vero, no, non è vero. Infatti noi dobbiamo lottare per superare il capitalismo, assolutamente, noi crediamo di potercela fare, però certo partendo dalla realtà, non partendo da basi teoriche che non hanno in realtà fondamento. Invece bisogna appunto, come diceva la compagna, partire dai territori, dalle contraddizioni che si trovano, che incidono in quei territori, cercare di instaurare dei piccoli, insomma, del contropotere già nel frattempo, e in questo anche ovviamente lottando contro il patriarcato e cercando, che è l'altro legaccio a cui noi donne in primis siamo, da cui siamo insomma schiacciate. Sì, ma infatti questa divisione tra metodo e modello, cioè l'auto-organizzazione come metodo e come modello, la trovo una formula molto efficace per descrivere questo rapporto, diciamo, un po' dialettico che si instaura, no? Tra l'applicare un metodo e cercare di sperimentarlo poi anche in queste maglie strette, purtroppo, però sperimentare un modello altro significa anche, quando tu parlavi di rapporti di forza che ogni tanto, anzi spesso purtroppo, sono avversi, significa anche avere una spinta ideale che può, diciamo, dare nuova linfa anche in quei momenti in cui il rapporto di forza purtroppo lo stai un po', cioè ti sta un po' ricadendo addosso, no? E in questo credo che la riflessione sul patriarcato sia assolutamente centrale, perché poi questa produzione di modelli che sono capitalistici ma sono anche appunto patriarcali è proprio uno strumento molto risalente di cui il patriarcato anche precapitalistico si è sempre servito, quindi è l'imposizione sulla donna del modello di quello che deve essere dentro la società, eccetera, e quindi sperimentarne degli altri, imporsi su quel terreno, mi sembra abbastanza centrale. Anch'io volevo dire una cosa sull'auto-organizzazione, perché è un concetto molto femminista. Nel senso, quando qualche anno fa abbiamo fatto un incontro nazionale contro la violenza sulle donne, mi pare, o un altro sul sociale, adesso non mi ricordo quale dei due, abbiamo parlato proprio dell'auto-organizzazione e l'avevamo definita la capacità di riconoscere i propri desideri e la consapevolezza della capacità di poterli realizzare, la presa in carico, no, della capacità, per cui questo a cascata porta immediatamente al discorso che facevi tu prima della delega, no? Che la delega è stato uno dei grimaldelli attraverso cui è stata distrutta la capacità di lottare. E proprio noi come femministe l'abbiamo vissuta direttamente da lì dentro. È chiaro che questo ha attraversato tutto il movimento, ha attraversato tutti i movimenti, però noi l'abbiamo sentita in maniera molto particolare, perché è venuta diciamo attraverso una riconsegna allo Stato di tutte le istanze che erano state proprie del movimento femminista degli anni 70, cioè negli anni 70, attraverso i consultori autogestiti, attraverso tutta una serie di modalità di presa in carico diretta, come dicevi tu, si era riuscita ad ottenere una consapevolezza e una lettura dello stato di cose in cui stavamo e una capacità di prendersi in carico la soluzione di questi dei problemi. Invece la delega allo Stato, attraverso gli specialisti, attraverso gli addetti ai lavori di qualsiasi tipo, e quindi anche nel lavoro attraverso le strutture sindacali, sono state proprio lo strumento principale di destrutturazione delle lotte. Sì, infatti, diciamo, quello che la visione è, deve essere tra virgolette totalizzante, nella misura in cui tu l'analisi di genere e del patriarcato assolutamente applicabile in tutti i settori, in tutte le fasi della lotta, in tutte anche se vogliamo le specificità. E poi in particolare noi possiamo entrare più nello specifico e portare degli esempi concreti come le donne, le compagne, ma non solo, diciamo applicano in maniera eccellente, diciamo, quella che è la visione appunto auto-organizzata. E un esempio che mi viene in mente non a caso è quella dell'esperienza dei consultori, dell'assemblea delle donne per i consultori. Appunto, l'assemblea è uno strumento assolutamente privo di forme verticistiche, associazionista o quant'altro, e quindi ci permette, permette alle donne sul proprio territorio di avere un controllo, una forma di controllo diretta di tutto quello che accade a livello sanitario e non solo, perché sappiamo che i consultori non riguardano soltanto la sfera della sanità pubblica, tutto quello che quello di cui sostanzialmente poi il patriarcato va quando tenta di imporre un determinato modello, strategia di controllo, e va ad interferire pesantemente, come sappiamo, su tematiche come contraccezione, aborto, famiglia, quelle che sono le relazioni, eccetera. Quindi quello che appunto è assolutamente necessario come forma auto-organizzativa poi andare ad applicare anche in questi momenti, in queste fasi nello specifico. Allora, prima di continuare facciamo un breve stacco musicale, perché questa puntata è particolarmente pregna e poi abbiamo tutto il tempo, perché come vi siete accorti non c'è elettrodo e quindi ci siamo allargate anche in quest'altra ora. Va bene. Like a fountain from a pool. Flight. You've had to hide sometimes, Rientriamo in diretta, siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, siamo nella prima puntata dei Nomi delle Cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica, e stavamo discutendo con delle compagne dell'auto-organizzazione dell'iniziativa che si è svolta il 20 settembre all'Orto Insorto e che proseguirà anche con nuovi incontri di cui appunto daremo notizia alla fine della nostra chiacchierata, e stavamo per passare più nello specifico, diciamo, all'esperienza della lotta femminista. Già aveva anticipato la compagna alcune esperienze di lotta che hanno messo in campo da molti anni, ce ne sono anche altre che hanno portato avanti, diciamo il discorso dell'auto-organizzazione applicato alla lotta femminista è particolarmente importante in questo periodo, perché proprio per il discorso che facevamo prima della delega come strumento attraverso cui si è fatta passare proprio la depoliticizzazione, ma anche la desoggettivizzazione di tutti gli oppressi e le sfruttate, si è applicata anche molto alla lotta femminista, nel senso che si è incominciato a lottare, a rivendicare i propri diritti in maniera molto trasversale, sempre per quel concetto che dicevamo anche nella parte precedente della trasmissione, per cui questa oppressione di genere è chiaro che riguarda tutte, e come si estende fuori dai confini nazionali si estende anche oltre la classe, cioè trasversalmente alle classi. Però non si deve fare l'errore di pensare che anche la lotta femminista sia appunto trasversale, e dunque la presa in carico e l'auto-organizzazione, che quindi passa anche per un'autodeterminazione, deve necessariamente concretizzarsi, poi applicarsi anche ad un rifiuto di tutti quei legami istituzionali, di queste diciamo alleanze trasversali che si fanno con donne che poi appartengono a partiti di governo neoliberisti piuttosto che a sindacati eccetera eccetera, in virtù di questa trasversalità, mentre invece le esperienze di auto-organizzazione invece appunto dimostrano il contrario e praticano il contrario. Sì, infatti, esattamente. E diciamo, più che parlare di diritti, ci piace insomma parlare di autodeterminazione, appunto, e come dici tu, rifiutiamo qualsiasi forma di, chiamiamolo anche parassitismo, cioè di quelle forme di reciproco appoggio con forme istituzionali, sindacali, partitiche, che purtroppo spesso ci ritroviamo all'interno dei nostri percorsi. Questa deve essere sempre, è chiaro che per noi sono poi formule e rapporti assolutamente conflittuali, per quanto riguarda ad esempio l'esperienza dell'Assemblea delle Donne dei Consultori, che appunto ricordiamo è un'assemblea delle donne e degli utenti che vivono il territorio, rifiuta qualsiasi formula di questo tipo, assolutamente di carattere orizzontale, scollegato da qualsiasi diciamo controllo e gestione opportunistica da parte delle organizzazioni dei vertici. Quindi quello che di cui si occupa sostanzialmente, che esercita l'assemblea da anni, da sempre, sono quelle forme di controllo conflittuali affinché nella fattispecie dei consultori, per esempio, sempre per ritornare nella concretezza delle cose che facciamo, appunto sia garantita la sua gratuità a tutte le donne del territorio, ma anche le migranti, che poi spesso diventano il bersaglio più complesso, sono le donne che più con difficoltà si avvicinano e si affiancano ai servizi pubblici sanitari, di cui invece poi chiaramente necessitano, e come insomma possiamo immaginare quali sono le dinamiche che si innescano quando vengono alle luci esperienze di donne migranti. Quindi insomma, per fare una battuta, la crisi c'è per tutte, ma per le donne insomma forse la crisi è ancora più forte e più sentita. Noi ci difendiamo, il consultorio no, perché ci abbiamo una forma strana di voler mantenere un servizio a tutti i costi, ma perché appunto ricordiamo che all'interno di tutto il circuito sanitario è quel servizio che ti dà la possibilità anzitutto di accedere in maniera gratuita. Dovrebbe essere, e qui ritorniamo alla questione delle, soprattutto per le migranti, deve essere anche in forma anonima. Quando vai al consultorio nessuno ti deve chiedere di compilare una scheda, di lasciare i documenti, all'operatore o all'operatrice in servizio non interessa di che nazionalità sei, se hai il permesso di soggiorno o quant'altro. Quindi questa è una forma molto importante, e poi perché sappiamo che all'interno dei consultori inizia quello che è un processo, un percorso importante di scelta delle donne, anche relativamente un elemento fondamentale importante della nostra esistenza, che è quella sulla scelta della maternità o della scelta dell'interruzione di gravidanza, insomma, che è un elemento forte, importante, che ci permette di autodeterminarci l'esistenza e fare in modo che appunto ai governi, allo Stato di turno, a tutto il mondo in realtà interessa molto del corpo delle donne. Lo sappiamo perché si legifera e si fanno riforme e si ritorna sulle leggi ancora e ancora dopo tanti anni, pensiamo alla 194, una su tutte. E quindi ecco, noi sappiamo che invece è importante mantenere blindato quello che siamo riusciti ad ottenere faticosamente, e anche con non poche, poi magari queste sono parentesi che apriremo in altri momenti, anche con non pochi pezzi che ci siamo persi negli anni di quello che era il progetto iniziale di legge, ma insomma siamo riusciti ad ottenere quello che è necessario e fondamentale mantenere attivo. Speriamo che nessuno ci debba mettere le mani, come ogni tanto tenta il politicante di turno, tra riforme e riformine. A noi la 194 più o meno ci sta bene così com'è, meglio non metterci mano, perché sappiamo che peggiorerebbe e nient'altro. E poi appunto stiamo parlando di una assemblea all'interno del consultorio, quindi è anche un luogo, cioè è un luogo di confronto, non è appunto da lì parte il controllo del territorio, di tutto il sistema sanitario, di quello che poi più specificamente riguarda le operazioni sul corpo della donna che vengono fatte lì, ma diventa anche, come luogo assembleare, può diventare anche qualcosa di più, una base di partenza, no? Perché là appunto se incominci a fare assemblea già significa che sei sulla strada per poter prendere consapevolezza, e poi chissà dove porterà questa consapevolezza. Certo, assolutamente. Di auto-organizzazione anche lì, insomma, un tempo. Sì. Esatto. Per esempio, uno dei concetti base con cui è avvenuta si sono state di nuovo riportate a ragione le donne dopo gli anni 70, per esempio, è stato quello della vittimizzazione. E la vittimizzazione è un concetto che non abbraccia soltanto noi, come genere femminile, ma è un qualcosa che viene riferito anche ai migranti, e viene riferito anche in maniera un po' spuria, ma ai lavoratori e alle lavoratrici tutte. Perché? Perché soltanto se tu ti metti in condizione di chiedere di essere nella situazione di pietire e di metterti nelle mani metterti nelle mani dello Stato, allora puoi ottenere attenzione e, tra virgolette, qualche cosa. Questo è molto evidente per esempio nel rapporto delle donne e violenza, nel senso che ogni qualvolta una donna subisce violenza di qualsiasi tipo, per avere attenzione non deve essere né una donna forte, né una donna volitiva, né una donna autodeterminata, deve essere una donna che ha subito, che piange, che si dispera, che fa vedere i lividi e che chiede aiuto, protezione e compagnia bella. Ed è un meccanismo perverso perché praticamente è di completo affido, è un affidamento, e questo succede però anche ai migranti, cioè è un meccanismo che viene trasferito pari pari anche quando questo tipo di sistema entra in rapporto con il migrante, cioè il migrante è quello che deve andare a pietire, affidarsi a qualche organizzazione ufficiale, ONG, ONUS eccetera eccetera, non sia mai che si ribelli, non sia mai che si auto-organizzi, non sia mai che rivendichi diritti, deve pietire soltanto dal punto di vista umanitario. Così il sistema dà la possibilità a quelli che si vendono meglio e si vendono prima di dire sì, anche i migranti possono farcela. E poi che cosa succede? Che i migranti, come è successo per le donne in carriera, come è successo per le patriarche in politica e compagnia bella, che diventano il fiore all'occhiello del sistema e la manifestazione di cui il sistema si fregia, che anche gli immigrati ce la possono fare, anche le donne possono far carriera, se non ce la fanno è colpa loro. Sì, assolutamente, infatti. E anche i lavoratori e le lavoratrici, in effetti, perché o tu ti metti nella condizione di dire sì, allora stiamo male, non riusciamo ad arrivare alla fine del mese, compagnia bella, non a rivendicare uno status di soggetto politico e quindi andare a una contrattazione di ben altro. Esatto, esattamente, proprio questo quello che diciamo noi abbiamo visto nella rivendicazione dei consultori, non viene bene, non suona bene, però quello che cerchiamo di far passare, appunto, di difenderci, ecco, diciamo così, è proprio questo, il fatto che di fronte alla precarietà, la mancanza di soldi, anche alle necessità di classe, perché poi sappiamo che un servizio gratuito è utile alle donne che hanno difficoltà economiche, e diciamo quello è uno degli elementi che già dovrebbe portarci a convincerci del fatto che assolutamente il consultorio è un presidio che non va assolutamente toccato e deve essere garantito per tutte. E ci è capitato a noi, per esempio, ai Castelli più volte di avere soprattutto a Marino, e il pericolo della chiusura del consultorio, e contestualmente la preoccupazione era grave anche soprattutto per il personale, per le operatrici e gli operatori che già soffrono dei turnover, quindi della mancanza forte di personale. I consultori, come sappiamo, sono pochi, dovrebbero essere uno ogni 20.000 abitanti, non siamo neanche lontanamente vicini a questi numeri, e gli operatori appunto soffrono, le operatrici tantissimo, della mancanza di personale e dell'incapacità di poter agire in maniera preventiva, perché poi è quella la funzione principale. Se noi riuscissimo ad arrivare ad un livello di prevenzione tale, sapremmo benissimo che non dovremmo neanche più dover arrivare all'aborto, eccetera. Quindi quello che ci è capitato purtroppo più di una volta è stato quello di dover scongiurare la chiusura di questi presidi, di questi consultori, e quello che abbiamo fatto è stato occupare simbolicamente, e chiaramente noi siamo entrate, siamo state dentro, abbiamo chiesto di poter parlare con le dirigenze locali eccetera, però ecco, queste sono le attività nel concreto, nel pratico, che abbiamo dovuto fare insieme. Poi ci sono state diverse occasioni in cui anche alcuni lavoratori auto-organizzati di sanità, l'AOS, lavoratori auto-organizzati della sanità dei Castelli Romani, che insomma sono intervenuti insieme all'Assemblea delle Donne per evitare tutta una serie di questioni che abbiamo già elencato, il consultorio, ma come anche l'ospedale, e non in ultimo ripetiamo la garanzia di ricoprire tutti i posti, quei posti di lavoro di chi va in pensione, che è assolutamente impossibile, non si riesce ad ottenere niente in questo senso, e soprattutto quel pericolo incombente che è legato alle privatizzazioni e tagli, accorpamenti che chiaramente producono un vuoto, un buco poi territoriale in favore dei grandi poli, che andrebbero poi a concentrarsi in una specifica in uno specifico settore territoriale, lasciando poi chiaramente in questo caso le donne prive del servizio immediato di cui si necessita all'interno delle dei propri sì. paesi, dei propri città, eccetera. E poi spostando, mi viene in mente anche che spostando questi servizi, diciamo, nelle metropoli, che sono luoghi assolutamente atomizzanti, diciamo, no? Cioè un individuo dentro la metropoli è proprio una monade impazzita, che i suoi contatti con gli altri, diciamo, sono sempre di rabbia e mai, insomma, difficilmente di confronto o di solidarietà. E quindi, cioè, se si chiudono i presidi sanitari, oltre ad essere chiaramente un danno dal punto di vista materiale, proprio oggettivo, per le prestazioni che vengono a mancare, no? Si chiudono anche questi luoghi di incontro, che magari in situazioni più piccole, cioè urbane, ma più piccole, dove sopravvivono ancora dei legami sociali un po' più strutturati, allora possono diventare anche dei momenti di riconoscimento, di lotta, no? E di punti di partenza importanti, mentre invece qua in città c'è anche sempre questa difficoltà, che i ritmi sono molto veloci, le relazioni sono molto frammentarie, e quindi si creano, diciamo, no? Cioè, chiaramente c'è più disagio, c'è più individualismo, e quindi c'è sì. anche questa contropartita, cioè come quello che è successo per le università, per esempio, no? Cioè spostare ogni facoltà sempre più lontana dalle altre, cioè impedisce quell'aggregazione, quei momenti di confronto, eccetera, che invece in situazioni, in architetture, diciamole così, cioè differenti, si possono, hanno più possibilità di svilupparsi, vengono a... Sì, proprio per questo noi ci auguriamo, infatti, che si vengano a costituire sempre più, a formare sempre più collettivi, sempre più assemblee di donne dei consultori, in modo che si possa poi raggiungere tutti i territori, sia cittadini che di provincia, in modo che, insomma, si possa stare sul proprio territorio, dove si conosce la propria realtà, dove si conosce diciamo la propria controparte, perché poi è importante anche quello, avere chiara la controparte, andare a confliggere, a controllare e quant'altro. Allora, prima di chiudere, io volevo tornare invece più in generale all'iniziativa dell'auto-organizzazione, così, insomma, lanciamo anche gli altri appuntamenti. Bene, ok, niente, insomma, ribadendo appunto i concetti anche espressi dalle compagne prima che qui, insomma, la lotta ormai è, diciamo, dichiarata, specialmente dalla classe dominante, quindi è ora di fare qualcosa per cercare, insomma, di sottrarci a questo sfruttamento e di cercare di cambiare lo stato di cose. E appunto con questo spirito noi abbiamo avviato questo percorso il 20 settembre, mettendo appunto a confronto il nostro metodo con le realtà che vogliono, insomma, partecipare. E l'assemblea del 20 settembre ha deciso che il prossimo appuntamento si incentrerà sul modello organizzativo delle lotte, del percorso, e preannunciamo che il prossimo appuntamento dovrebbe essere il 7 novembre, sabato 7 novembre, comunque presumibilmente dovrebbe essere questa la data del prossimo appuntamento, ma insomma... Vabbè, in caso di variazioni chiaramente faremo sapere. E comunque noi abbiamo anche, insomma, il sito, che è www.assembleaperlatorganizzazione.org, dove potete trovare gli appuntamenti e troverete anche il numero, i vari numeri di un giornalino che noi facciamo anche con i contributi di altre strutture. Siamo arrivati già al settimo numero, lo trovate in cartaceo sia in radio che in altri posti, nelle nostre sedi, e lo trovate anche sul sito. Grazie, grazie dello spazio. Grazie, grazie. Speriamo di vederci quindi a novembre. Sì, chiaramente. Ciao. Ciao. Par exemple, les gens m'appellent Myriam Makeba. Ça, c'est pas tellement mon nom. Mon nom, c'est Zenzile. Kamakeba, Kakwashu, Gouvama, Ketile Nengwa, Pantana Balom, c'est Afunoba, Kabulisa, Batengeli, Potilio, Pada. Les colonisateurs de chez nous en Afrique du Sud appellent cette chanson Click Song parce que eux, ils ne savent pas dire où on va tourner. Okay, we will do. Oh shoot. Maybe we'll do them both, I don't know. Hey, we're in the middle of a revolution because I see the face of things to come. Yes, I do. Oh, your constitution. Of all the evil, it will have to end. Cade tutte, cadi tutti di nuovo. Fra poco ci metteremo in collegamento, faremo l'ultimo giro di questa lunghissima trasmissione, ci metteremo in collegamento con Vittoria, una compagna del Virgilio, perché ci faccia il punto sulle lotte invece, sullo stato delle lotte nella scuola. Put off our back. Ah, it's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Ti sentiamo? Allora, okay. Ciao, grazie di essere intervenuta in radio. E, in realtà, vabbè, oggi abbiamo parlato dello stato del movimento e quindi a che punto siamo arrivati e tutta una serie di riflessioni e analisi che sono state portate qui nella città di Roma, sia dall'Assemblea dell'Autoorganizzazione che appunto nella 4 giorni di Sfidiamo il Presente, dove erano appunto c'era anche la componente studentesca e abbiamo accennato più che altro al mondo dell'università. Dato le mobilitazioni che ci sono state sia il 2 di ottobre e quella che ci sarà il 9, ci sembrava, insomma, per concludere la puntata di oggi, importante dare spazio anche a comunque tutta la parte di studenti mediche. Normalmente è la prima, diciamo, componente sociale del movimento a aprire, diciamo, la strada ai vari conflitti e a insomma portare le nostre istanze insieme. In più voi comunque avete fatto tutto un discorso sulla buona scuola e da lì in realtà le cose che ci, cioè nel senso che abbiamo anche fatto una trasmissione su quello e appunto c'è tutta la critica alla meritocrazia, al preside appunto che rappresenta l'azienda che è diventato un padrone e quindi che ha un livello, un rapporto gerarchico all'interno della scuola, no? Dove non c'è più spazio per luoghi di auto-organizzazione o comunque di creazione, ma è tutto impostato e addirittura adesso il sapere è equivalente a un costo, no? Per poter studiare, eccetera. Quindi insomma tutte queste appunto diciamo importanti istanze vengono portate appunto dalle vostre lotte in piazza, appunto si riesce a discutere anche di quello. Volevamo sapere insomma a che punto siete. Sì, certo, innanzitutto l'ottobre è stata la prima data dell'autunno e come dicevi bene te discenderemo questo venerdì stesso. A parte i numeri che poteva andare un po' meglio a causa comunque dello sciopero dei mezzi, per cui alcune scuole non sono riuscite a raggiungerci e a causa anche della lunga contrattazione con le forze dell'ordine per colpa del divieto del prefetto Gabrielli di manifestare dentro le vie del centro, il corteo è andato piuttosto bene. In 1000-1500 siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo, cioè il Ministero della Pubblica Istruzione, e a sanzionarlo. Ovviamente il nostro corteo ha toccato principalmente la tematica della buona scuola, proprio come dicevi te, soprattutto concentrandosi sulla mancata democrazia all'interno degli istituti, ma anche sulla questione degli stage, quindi da un certo punto di vista di un'educazione alla precarietà, un'educazione a un lavoro sfruttato e a un lavoro non stabile. E inoltre, partendo proprio dal caro vita, dal caro trasporti, dal caro libri, insomma la data del 2 sarà una data molto ampia che è riuscita a toccare diversi temi, riuscendo sia a contrastare la riforma sull'istruzione ma anche collegandosi a quello che è il mondo del lavoro, collegandosi alla mala gestione della città e portando inoltre con uno striscione solidarietà ai migranti dopo lo sgombero del presidio stabile a Ventimiglia. Questa è stata la prima data, spero che introdurrà quello che è un autunno caldo, un autunno di lotta, e diciamo che la data del 9, questo venerdì, sarà un po' un termometro per capire come si svilupperà questo autunno. poi in futuro ci saranno anche le occupazioni delle scuole. La data del 9 diciamo che è un po' più complicata tra virgolette di quelle del 2, in quanto la data del 2 sarà lanciata al nostro network nazionale, mentre quella del 9 è lanciata a Rete della Conoscenza e UDS, il sindacato studentesco. Noi abbiamo scelto comunque di scendere perché pensiamo sia importante non precludersi nessuna occasione di lotta, sia importante anche scendere in piazza in mezzo agli studenti per coinvolgere, aggregare, far capire chi sei, e quindi scendere in piazza con uno spezzone nostro che ci rappresenta con le nostre pratiche e con le nostre tematiche, che non si limitano al diversamente da altre realtà a una critica specifica solo e soltanto della riforma della buona scuola. Va bene, non so se qualcun altro gli vuole fare qualche domanda. Beh, diciamo che voi come studenti medi avete un compito molto molto difficile, perché siete in strutture chiuse, di fatto le scuole non sono come l'università, avete tutta una gerarchia che è stata rimpostata e che chiaramente vi tiene imbrigliati in tutta una serie di metodi, metodologie di controllo a cui vi dovete sottrarre. Io posso soltanto dirvi che avete fatto tantissime cose in questo periodo estremamente buone, coraggiose, e quindi vi auguro buona lotta e di avere sempre questa carica. Ok, ti ringraziamo per il tuo intervento e ci vediamo nelle lotte. Grazie a voi. Ciao. Well, just to prove you do, come on and cry, cry, cry me a river, cry me a river. Allora, come prima puntata vi abbiamo ammorbato per 2 ore, così vi preparate bene al nuovo anno con la coordinamenta. Preparatevi, ci sarà solo 1 ora come normale, dalle 20 alle 21, e sempre il mercoledì su Radio Onda Rossa 87.9. Ovviamente la radio non ha né padroni né padroncini, quindi se volete aiutarci, insomma, a continuare così sulla nostra strada, il conto corrente postale è 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56, 00185 Roma. E invece per la coordinamenta la nostra mail è coordinamenta con 2 O @autistiche.org, e invece il nostro blog è coordinamenta.noblogs.org. Lì trovate tutto il materiale, le puntate in streaming e tutto quello che insomma volete, quindi scriveteci, contattateci, e mi raccomando ascoltateci ogni mercoledì dalle 20 alle 21. Ciao ciao.